fatto la lombare come anestesia, abbiamo fatto la lombare. Sì, lo so, mia moglie le ha fatti tutti e due i menischi. No, io lo so per fortuna, perché per colpa di una commessa, io ho fatto sempre l'autista, poi va meglio. Mi hanno dato un posto con un pesce in vetro e ho fatto anche il grado di rigurgito, però dopo che mi sono fatto male, cioè, abbiamo scaricato le anguille a mano e avanzate sotto al camion, le anguille, no, ce le ho preso tutte in plastica. Io mi sono abbassato per farlo scendere, per non buttarlo così e rimbalza, magari rimbalza fa male a qualcuno. Lo stavo accompagnando, la commessa da giù ha preso, ha tirato, non mi ha visto dietro e io ci sono finito dentro il miso. Ho capito, ciao Cristian, che a te non ti avevo salutato, non so se ci sia qualcun altro. No, non c'è nessuno, c'è la Luca, c'è la che tiro, ma sono in apparato. Ciao Cristian, ciao, buon bacio. Ciao Cristian, alle prossime. Avanti Carlo, avanti. Non era buono stasera. Oggi ero di riposo, oggi c'ero stamattina in radio e anche stasera un pochettino. E niente, adesso avevo acceso, stavo ascoltando. Sì, quegli interventi lì si chiamano interventi in artroscopia, perché tu l'hai fatto il menisco e mia moglie ne ha fatto due, quindi non ero presente, ma so benissimo gli effetti che fa, capito? E praticamente il menisco era spappolato, perché cartilagine che si deteriora e a volte, capito, basta poco, ma ti veniva l'infiammazione e immagino il dolore al ginocchio anche a te, no? Sì, praticamente io per sollevare la gamba per andare a letto dovevo fare tipo gru con l'altra gamba, sollevarmela con l'altra gamba e mettermela sul letto, poi per riscenderla prendermela con le mani e riscenderla, cioè sembrava una leva delle masse spoccolata la gamba, se andava da una parte e dall'altra. Esatto, come faceva mia moglie lo stesso, per salire in macchina doveva prenderla e portarsela sulla gamba con le mani, perché se non gli veniva il dolore. Riusciva a guidare piano piano, però alla fine si è decisa e ha fatto prima uno e l'anno dopo ha fatto l'altro di ginocchio. Io ho visto tutto l'intervento, sono svenuto solo dopo che loro mi hanno coperto il tabellone dove stavo guardando il monitor. Stavo guardando nel monitor tutta l'operazione. Come no, ho coperto, stavo per svenire, ho chiamato subito l'anestesista e ho detto che stavo per svenire, quindi hanno bloccato l'intervento e mi sono spaventato perché loro hanno messo un telo sopra al monitor per non farmi vedere cosa mi facevano. Io mi sono spaventato, chissà cosa mi devono fare, sentivo rumore di martello e come se ci fosse martello in musica. Poi gliel'ho chiesto al dottore e mi ha detto che in effetti avevo sentito bene, perché usano questo sistema qua per bucare l'osso, far uscire il liquido che è rimasto, il sangue presto, roba di genere. Sì, esatto, ci vanno duri con quell'intervento, però è risolutivo, perché grazie a Dio mia moglie già sta bene da allora, non ha avuto più i dolori e riesce a fare tutto, diciamo. È sempre prudente, però già è andato tutto bene lì ad Alghero, già erano bravi. Adesso non so come siano messi lì all'ospedale Marino, prima c'era Pudda e c'aveva tutta l'equipe di altri medici che facevano tutto. Adesso non so più chi ci sia. Anche a me mi ha operato Pudda, è molto bravo. Io ci ho parlato con lui, è una persona alla mano, ci ho parlato e gli ho chiesto che cos'era quel rumore che sentivo di martello, di picco, me l'ha spiegato. Ecco, sì, è vero, lei ha sentito bene, dice, perché lo usiamo per bucare, non so, per far fuoriuscire il sangue pesto, liquidi strani che ci sono all'interno, capito? Quando ci hanno, perché me l'hanno fatto in ospedale, quando la sera siamo usciti, c'era una signora che stava discutendo col marito. Questa signora l'aveva operata e il marito non credeva che avesse usato il martello col picco. Quando io l'ho sentito, gli ho detto, ma fai, ma finisci la cosa del picco al martello. E ho detto, ascolti, l'ho fatta anch'io la stessa operazione e ha ragione sua moglie. Ma davvero, sì. Aspetta, cosa sono muratori? È così. Sì, addirittura mia moglie, la prima operazione che ha fatto, non aveva fatto la fisioterapia da subito, e mi ricordo avevamo la bambina piccola, si era seduta sul tappetino in gomma giocando con la bambina, quando è andata a sollevarsi praticamente è fuoriuscita dalla sede la rotula, e un dolore insopportabile, e l'avevo dovuta portare al pronto soccorso lì all'ospedale Marino, me l'avevo caricata in macchina che non poteva neanche piegare la gamba, e lì gli avevano rimesso a posto la rotula e gli avevano consigliato subito di fare la fisioterapia, perché praticamente i muscoli si atrofizzano come ti fanno l'intervento, perché si rilassano tutti i tendini eccetera, e quindi praticamente il muscolo si riduce, i tendini sono lenti e la rotula la tengono i tendini nella sede del ginocchio, capito? E sono cose un po' fastidiose quelle del ginocchio, senza dubbio, quindi Cristian ha tutte le ragioni a andare a riposarsi. Io ne ho avuto anche un'altra di studio del ginocchio, una volta sono scivolato sulla buccia di banana e praticamente ho fatto leva come quando fa la spaccata, ce l'è presente? Ho fatto leva sulla gamba e la parte che doveva piegare al contrario ha piegato viceversa. Quindi cosa è successo? Mi hanno portato all'ospedale con il ginocchio tutto buio, mi hanno tolto questa siringa nell'osso, le stelle stavo vedendo, e questi due mi dicevano, ma c'è grande e grosso, ma scusi, ma io sono fatto di carne ed ossa, non sono fatto di... Se sto gridando è perché mi state facendo male. Lasciavano l'ago infilato, poi svuotavano la siringa e poi mi mettevano la siringa con l'ago infilato e mi toccavano l'osso. Lo credo che fa male, quello è molto doloroso. Oh iaia, ho detto non c'è nessuno sul 10, vediamo se entra qualcun altro. E sono io, buonasera. E tanto non fa male a loro, capito? È per quello che se ne fregano. E Natali, buonasera. E io ero pieno di liquido, capito? C'è un liquido lei. C'è qualcuno che vuole entrare, mi sembra anche Natalino. Vediamo un po', ma. Giovanni, buonasera Gianni e buonasera Carlo, mi rimango in ascolto visto l'argomento, cambio. E Pidicchè ti sta facendo... No, possiamo cambiare argomento se vuoi. No, assolutamente, infatti sto facendo anche cose, continuate pure tranquillamente. Carlo, visto che sei in sede così gentile, fammi in questo controllo, bene coscienza. Fallo un po' più lungo che do un'occhiata allo strumentino, così vediamo come esci Giovanni. Due secondi, io non ti prendo molto tempo, prova radio, cambio per parte. Tra Santiago 9, la radio è una radio 4, comprensibile ma non molto alta, capito, però già va bene Giovanni. Qua sei 9 e 5 Giovanni. Ma Giova? Qua sì, 9 e 5. Grazie Gianni, grazie mille. Va molto bene. C'è poi telati con l'antenna Giova, fai 13. Sì, vado molto a rosare. Adesso mi sbrigo un paio di faccette che non posso trascurare e mi dedico all'antenna. Tranquillo Gianni. Poi in ogni caso esci già bene così, però se tu l'alti arrivi ancora più fuori. Lei mi interessa la radio, l'uscita, capito? Mi interessa la radio. La radio già va bene, ti ascolto bene. Aspetto Gianni, se li ascolti, cambio. Dove sei Franco? Buonasera. Ciao Gianni, buonasera. Porto Torres alla zona, al porticciolo. 9:20 Radio 5. Fatto di positivo, volevo sapere da Carlo se ti ascoltava, non lo so. Che ti ascolto già, ma sempre pescando stai tu. Tutti i porticcioli ti stai prendendo della provincia di Sassari. Sto scherzando, Santiago 9:20 qua Radio 5. Grazie del controllo, cosa devi dire Carlo, ti potrò cambio, 9:10. Radio Super 5 che chiami, 9:20 chiami comunque, va. Io sono in macchina, ho buttato le canne, ma non c'è niente, e pronto me ne salgo, tutto qua. Dai Gianni! Allora pure stasera te ne sei andato, bravo sì! Sì, sto provando, vado, sto provando qualcosa. E se tu sei sempre impegnato, cosa vuoi ti dico? Ah, cosa è impegnato? Se tu me lo chiedi io dico se sono impegnato o no. E vabbè, dai, tanto lo so che se non ci vuoi tu io non ne figli. E infatti non ho preso niente, perché non c'è niente, cioè prego un po', salari non ce ne sono, fatto la classe via, cioè nel baracchino se c'è qualcuno, è stata una torterata e tutto qua. Ma non c'è la profonda? Sono direttamente a Corno, non a Portatore, non so, c'è da Fiume Santo, dove c'è la centrale, giù però, capito? Mi fa questo, sicuramente non mi ascolta. No, no, no, da Fiume Santo arrivi bene, arrivi benissimo, va. Pappa, anche Carlo arriva bene comunque, ti sento bene alla grande. Sto filattando quella parecchio che tu hai visto Gianni con quella applicatorino, eh. Va bene, si fa. Un po' sacro, ma è un po' compressa. Sì, vabbè, il microfono normale Gianni questo, è solo il microfono, capito. Ma devi registrare da dentro, capito? Il bubino. Sì, vabbè, Gianni. Carlo, guardi la differenza quanto arrivo. Come fra? Ho detto che adesso non sta con l'applicatore, guardi quanto ti arrivo. Vai, vai, prova. Adesso Santiago 7, ti sento tranquillamente. Santiago 7, radio un po' più bassa, però ti sento bene. Va bene, la radio è più chiara, e limpida, recuaro. E Santiago è sempre 7, da me anche. Non hanno mandato niente, se da 7 si è andata a 9:20. Vabbè, ti grido. Porca miseria, ce la devo nel CCP. Guarda adesso, Gianni. È un pochino compressa. Però, se 7 è compresso, ti piace. Stava di positivo. Carlo, ha aumentato da te? Sì, adesso ho aumentato, Santiago 9:20. Qua, 9:20, radio, come dice... Gianni, un po' compressa, però è già buona la radio. C'è anche Natalino, non so se riesce a sentirlo, e Giovanni che ha Platamona. Giovanni vuole aumentare, controllo radio, cambio. Sento Natalino, Alfa 1, se mi ascolti, cambio. Sì, già ti ascolto io. Fatemi sognare che c'è Natalino, buono. 9:10 sta arrivando qua, più lasciato. Già ti ascolto. Sono a minimo, già ti ascolto, già lo sai che non posso alzare. Però volevo sapere se la radio è buona, capito? Perché sto pilotando con l'amplificatore adesso. Già è buona, già è comprensibile, dai. Fare positivo, riprendi già, perché controllo l'ecrano, un attimino poi riprendo, ok? Se poi abbassi il watt di entrata, magari va meglio. È un po' sato, è non sato, è un po' compressa la radio. Va bene, dai. Ok. Riprendi già. Va bene. Rilanciamo un attimo, vediamo un po' se vuole entrare. Io non risponde. Luca, riprenditi un attimo. Nicca, dai, io sto mangiando, vi stavo ascoltando e sono voluto entrare a salutarvi, dai. Vabbè, dai, ci sentiamo alle prossime, rimango in quei ricchi. No, io oggi ho fatto l'ingordo, avevo voglia di mangiarmi una baguette calda con la mortadella dentro, l'appena aspettata. E sono andato e mi sono comprato le baguette, quelle da fare, come l'ho fatte a casa, l'ho scaldata, ci ho messo la mortadella, due fette di cose di pomodoro e un po' di maionese, ma lo sai che anche la volta, bello croccante. Già me lo posso immaginare, è la glicemia che tu ti sei alzata. No, non ce l'ho altro. Praticamente non è di quelle baguette lunghe, Natali, rimangono baguette ma più corte di quelle che vendono normalmente, dai. Sono più corte, tu le metti in forno a 200 gradi, 10 minuti e ti si fanno belle croccanti. E devi stare attento a come le tagli, perché sotto si spaccano, perché diventano belle croccanti, sono veramente buone. E oggi rinuncio alla cena, ho mangiato calorie e basta così. Se non mangi altro. Invece qua c'è gente che mangia e bisogna cucinare, altro che magari bastasse una baguette così, qua è roba di pasta asciutta. No, io pasta non ne mangio quasi mai, cioè ogni giorno non ne mangio solo il secondo, l'insalata, posso dire il pesce, una fettina, però prima non ne mangio mai per evitare sempre della glicemia che mi si alzi, capito? Perché io mangio il pane, quindi se mangio il pane non puoi mangiare la pasta e viceversa. Ho capito, sì, no, ma la pasta troppa fa, non è che faccia molto bene. Ogni tanto sì, un piatto di pasta si può mangiare. E stasera stavo facendo un po' di esperimenti con un alimentatore improvvisato, 30 ampere, e lo stavo misurando con lo strumento e lo dà tutto, i 30 ampere li regge. E io non ho quell'antico di alimentatore, antico ma nuovo, di quelli con trasformatore interno, e pesa un trono, è 35 ampere quello che c'ho io. Sì, no, questo è roba di cineseria, però va bene, addirittura c'è all'interno una vettina, perché te lo danno con 12 volt di uscita, e tu la giri, metti lo strumento col tester, no, finché te la porti su a 13,8, l'ho lasciato così adesso, qualche giorno provo un po' anche io il 747 a vedere se arrostiamo qualche piccione. Dai. Allora, quelli lì io ce li ho e ti dico che vanno molto bene. Io ce l'ho da 50 ampere, di quelle che si mettono per intenderci nel computer, eccetera eccetera. Ho capito, questo c'è una ventolina che ho visto entrare subito in funzione, però non è rumorosa. No, ma con il mio. Ma il mio pilota 300 watt è quello mio, Eh sì, quello magari è più grosso, questa è una scatoletta, è piccola, capito? Roba leggera, però già va bene per quello strumentino lì, dai. Ah, beh, certo. Io quello lì lo attaccavo a 50 ampere, lo attaccavo però un alimentatore con strumenti, eccetera, eccetera, così sì. Sì, io adesso oggi no, perché non ne ho voglia adesso di stare a staccare a provare, domani non ci sono quasi tutto il giorno perché c'ho un turno dalle 8 sino alle 16 e quindi rientrerò a casa un po' rimbambito, dai, e quindi tutt'al più qualche modulata di pomeriggio, poi quando avrò qualche minuto di più mi organizzo, perché so che scalda pure il linearetto, capito? Quindi lo voglio mettere in una posizione dove prenda un pochettino di aria, capito? In maniera tale che raffreddi, e magari senza sfruttare tutti i 100 watt che dà, ma magari anche con 50 dovrebbe andare bene. Ma rimette una ventolina sopra, se tu lo vuoi evitare, ti fa una ventolina con l'interruttore, te la metti, se la attacchi sopra, con 4 viti attacchi a quelle alette, che prendono le alette di quella cuffietta, e si apposta. Posso fargliela, ce l'ho anche una ventolina piccola, capito? Non mi ricordo da dove l'avevo tolto, l'ho vista l'altro giorno giù in garage che stavo cercando, non mi ricordo che cosa, ha detto mi una ventolina e c'ha già i fili collegati, quindi poco costa mettergliela sopra, magari gliela fisso con qualcosa di leggero, capito? Io l'avevo fissata con biadesivo, quello della Fantex. E non è mai uscito. Tanto è leggera, non è che deve fare chissà che forza, no? Quindi è che la devi mettere in una posizione che gira e raffredda, capito? E certo, la devi mettere sopra. La metti al centro, sopra e spargi l'aria. Ma c'ha i fattori comunque per anche, quindi non è che anche se non hai bisogno di ventola. Io l'avevo messa però, perché sono pignolo. Ho visto qualche tutorial che molti la mettono, l'attaccano col silicone anche, però adesso vedo, dai, perché magari non c'è bisogno di utilizzare tutti i 100, lo posso pilotare qua regolando i watt in uscita dalla radio, perché già c'è la regolazione questa radio. Ho capito. Ma io te lo sconsiglio il silicone, perché poi ti basta tutto, te lo vira tutto. È meglio mettere il biadesivo, che poi se tu non lo vuoi più lo tiri e lo togli fuori e non rimane nulla, capito? Con più adesivo, quello della Pantex, che è il migliore che c'è. Secondo me ne ho provati tutti, quello della Pantex è il migliore. Sì, di quello ne ho anche, ne ho un rotolino, ma ne è rimasto più della metà. L'avevo utilizzato, non mi ricordo, per attaccare qualcosa di pesante, eppure ho visto che lo regge bene. Io ho tutti gli apparecchi attaccati con quello lì, praticamente le stampe, sotto la stampa metto l'adesivo e lo metto, e l'ho messo sopra l'altro apparecchio, capito? Sì, io da poco addirittura ho fissato dei supporti da bagno, tipo le portarotole eccetera, senza forare, un bagno nuovo che abbiamo fatto, con l'adesivo, e regge bene come se ci fossero i tassellini. Io ho fatto il portasciugamani così, il portasciugamani che gli asciugamani non è che siano tanto pesanti, quindi li regge tranquillamente. Sì, infatti il portasciugamani, anche il portarotolo non è pesante, è un rotolo di carta igienica, capito? Eviti di stare a prendere il trapano. Lo vendono, l'ho trovato da coso, da Bricoman, perché ho preso lì quei supporti e ho visto che c'era la possibilità di metterlo sia con l'adesivo che col tassello. Però l'adesivo quando fa presa è micidiale, e poi la cosa bella è che se un domani vuoi cambiare eccetera, poi pian piano con un raschietto, un po' di alcol, va via tutto, e quindi puoi rimettere di nuovo un supporto diverso o qualsiasi cosa senza procurare, insomma, i buchi al muro, capito? Ma infatti sì, è molto comodo, io lo uso spesso, se ne ho due o tre rotoli che lo uso molto per sistemare, per dire, nei ripiani, io gli apparecchi li ho attaccati con quello, intanto sono apparecchi che uso io, boh, basta, se li devo staccare poi io so come fare, li stacco tranquillamente. Io anche il portamicrofono qua al mobile, ovviamente non è che buco il mobile, ho attaccato appena di biadesivo di quello lì, ed è una bomba, quando una volta che fa presa non è che lo stacchi così, però il giorno che ti scoccia vuoi cambiare posizione, tiri via tutto e non rimane traccia di niente. Vabbè, io questo mobile qui l'avevo proprio studiato e fatto fare da falegname, proprio per metterci gli apparecchi, perché poi questo qui, una volta finito, chiudo gli sportelli e non si vede più nulla. E allora hai fatto un bel lavoro, dai. Sì, anche perché io tutti gli apparecchi ce l'ho in camera da letto, quindi ho fatto copiare diciamo un po' la struttura degli altri mobili che avevo, ho fatto ordinare da Pedro le maniglie dove avevo preso la camera da letto, le maniglie originali come quelle che ci avevo, perché il falegname ce non si trova, se tu te le ordina lui, ho provato, me le ha ordinate, me le ha fatte arrivare in 3 giorni, e ho messo le maniglie originali come ce l'hanno gli altri mobili, quindi non si vede nulla che è un mobile fatto così, capito? Lo credo, vuol dire che ha fatto anche un bel lavoro il falegname. Poi sì, se la camera da letto l'avevi presa nuova, hai fatto bene prenderti le maniglette uguali, perché se poi aspetti non le trovi più, cambiano modello eccetera, invece così hai tutto con lo stesso stile, capito? Se chiudi tutto e non si vede più niente, è un'ottima cosa quella. Attento Carlo, cambio. Avanti. Carlo, mi controlli quest'altro per favore, grazie, cambio. E vai bene Giova, va bene, va benissimo questo, sempre Santiago 9, Radio 5 adesso, e hai migliorato anche come radio. Grazie Carlo, proseguite pure tranquillamente, ciao. È una radio nuova quella Giova, un'altra radio ancora. Ce l'ha fatto Giulio Dollaro, non so se l'hai mai sentito al baracchino, l'ha fatto Giulio Dollaro, ma ne ha costruito 3 di mobili. Il mobile dici già? Sì, Giulio Dollaro è falegname, però adesso va in pensione. Me ne ha fatto 3 di mobili, abbiamo fatto quello dello stereo perché lo volevo particolare, con la vetrata davanti, eccetera, eccetera, me l'ha fatto somigliante agli altri della sala sempre. E mi ha fatto quello dell'acquario perché ce l'avevo nero diletto e me l'ho fatto fare in legno come gli altri cubi color noce, e l'ho fatto fare così, molto resistente, l'acquario da 100 litri ci sta benissimo. Io lo stesso l'avrei voluto trovare un falegname bravo per farmi una libreria, però capito, a mensole da mettere intorno a un pilastro che ho attaccato al muro nel salone, e stavo pensando con mia moglie di fare una libreria per sfruttare, se no c'è questo pilastro in mezzo, capito, e siccome abbiamo visto su una rivista che ci sono, però secondo me se le fa il falegname le fa su misura come vuoi tu, riesci a fare un lavoro bello, capito, perché non è cosa da improvvisarti tu a tagliare tavole eccetera, il falegname ci vuole qualcuno che insomma sia un professionista, per è un lavoro anche semplice se vogliamo, capito, solo che ormai sono diventati rarissimi i falegnami, diciamo, che vanno a casa e ti fanno queste cose su ordinazione, capito, non è che ne trovi più disponibili. Io avevo fatto fare anche, c'avevo la cassa dello stereo che praticamente ce l'avevo prima sul mobile, e poi mia moglie me l'ha fatta togliere e l'abbiamo messa in terra, e avevamo fatto fare delle basi con le ruote a scomparsa che non si vedono, tutte noce come la, e le ho messe in terra le casse sopra queste piattaforme che ha fatto belle, veramente me l'ha fatta quello che c'è lì, Pintus mi pare che si chiama. Sì, lo so dov'è. No, io ho risolto con lo stereo, perché praticamente nel salone dove ho il mobile del televisore ci sono due sportellini dentro, c'è la PlayStation che ogni tanto la usa mio figlio, c'è la 4 e qualche volta ci gioca, e poi avevo preso tempo fa una di quelle casse Bluetooth della Creative che sono ottime, e praticamente c'è anche il subwoofer che lo puoi mettere sotto, e quella la metti sopra, la carica automaticamente, e la musica ce l'hai ovunque, e la uso anche per il televisore, perché ci ho collegato dietro un cavo di quelli ottici all'ingresso, all'uscita del televisore, quindi quando voglio vedere film per esempio d'azione, da guerra, metti quella cassa lì e sembra di essere al cinema, capito? Ed è tutta senza fili, se vuoi funziona anche via Bluetooth col televisore o col wifi, funziona in mille modi, col cavo, e sono praticissimi questi strumenti nuovi, queste casse, perché le sposti, le porti dove vuoi, cioè da fare una festa, metti tutto in una borsa, e hanno una potenza incredibile pure. Ci credo, ma qui a casa le fusioni di musica non me ne mancano. C'ho la cassa, quella da 400 watt, quella che si illuminano, che si fanno adesso, che si illuminano tutte le case, che fa da radio, fa leggere pennine, insomma, fa di tutto, ed è fortissima come impianto, si sente benissimo, puoi fare karaoke, al microfono Bluetooth, puoi cantare, eccetera, eccetera. Poi c'ho lo stereo che ce l'ho già da un bel po' di tempo, che quello fatto c'è il cubo, e poi io ci ho messo anche il piatto della Sony, e niente, c'ha mangia cassette, poi c'ha il DVD che con 5 CD ci puoi mettere, vanno uno dopo l'altro. Insomma, è bello, della Panasonic, che ho le casse da 300 watt, vanno benissimo. Poi vado in cameretta e ho l'impianto stereo per il computer, ho proprio un sub grosso con le casse. A fianco c'ho l'altra scrivania e ne ho ancora un altro impianto, quello è professionale, quello c'ha tutto eco e via dicendo, quello della mia compagna l'ha portato qua, quando è venuta qua l'ha portato qua. E insomma, c'ho una discoteca a casa. Insomma, la musica non ti manca, Gianni, ne hai un po' dappertutto, e io lo stesso, io ogni tanto già mi sento, la mattina attacco la casa col Bluetooth, la collego al cellulare e mi scarico la musica che voglio da sentire, capito? E anche quella che c'hai già sul cellulare, qualsiasi cosa, oppure se metti una radio online, prende tutto. Allora, mi sono dimenticato, c'ho anche Alexa, che tu gli chiedi musica, mettimi una radio dove c'è musica bella, ti mette musica italiana, oppure ce la puoi inglese, oppure dici mettimi qui, ti metti qui, capito? Quella è la più comoda che c'è. Sì, sì, la conosco. In aeroporto c'è un negozio, a fianco alla parafarmacia c'è un negozio di parrucchiere, no? E hanno questa Alexa, e molte volte la lasciamo sempre attaccata, quindi quando l'aeroporto è chiuso e noi facciamo il servizio di notte, no? Passiamo vicino alla Serranda e gli dici Alexa, metti Queen, quale canzone vuoi, ti dice, dei Queen. Bohemian Rhapsody, la mette a bomba, poi parte una dopo l'altra, poi te le fa sentire. Ogni tanto ci divertiamo con quell'Alexa. Se vuoi fare uno scherzo, vidi ad Alexa, come si dice in tedesco, gatto e carbone. Non ti dico il risultato, però lo sentirai. Gatto e carbone in tedesco. In tedesco qualche cosa già la mastico anche io, sì, già la prossima volta la interroghiamo a vedere se ci dà la risposta. Natali, mi sa che l'hai azzeccata, eh. Carbone, come si dice? Adesso lo cerco. Già. Carbone, vedi, non lo sai. Ma poi tu ricordati gatto e carbone. E poi mi dà la risposta. Cole. Gatto e carbone. Che scole. Perché se lo metti su Google già te lo dà pure. Sì, però già la tecnologia, maledizione, quante ne sta vendendo. Addirittura Alexa la stanno mettendo integrata sulla lavazza a modo mio, capito? Però è una spesa folle, perché ti si rompe poi la macchinetta al caffè, ci devi buttare via tutto, anche questa Alexa, capito? Invece è meglio prenderla separata e così la macchinetta al caffè. Sì, perché dice Alexa fammi il caffè e te lo fa, capito? Per quello, infatti l'hanno integrata così, perché tu gli dai il comando, se ci sono le capsule già pronte ti fa il caffè subito. Sì, ma stiamo diventando sempre più androni con questa tecnologia, telecomandi per il televisore non ti alzi più, telecomando per lo stereo, ci sono telecomandi per tutto il gatto, televisore, computer, tutto telecomandato. Addirittura le applicazioni col telefono, capito? Io col telefono accendo, spengo la televisione, cambio canale, devi avere la stessa marca, tipo io c'ho il Samsung di televisore, il telefono idem, e c'è l'applicazione che ti fa anche da... se non trovi il telecomando uso il telefono. No, non è detto, io c'ho Huawei come telefono, no, il Redmi, scusa, Huawei ce l'avevo prima, il Redmi come telefono, e giro i canali nel televisore che ho un LG. Sì, perché comunque le applicazioni ormai le scarichi in qualsiasi dispositivo, capito, anche se è marca diversa. E in alcuni telefoni sono proprio native le applicazioni, tipo i Samsung ce le hanno già senza doverle scaricare, già sulla scheda di memoria del telefono, capito? Appagato. Ah, io l'ho tolta, ce l'avevo io. Ce l'avevo, non tocca, perché mi ho fatto una pulizia, perché poi ti vanno entrare al telefono, che ti prendono un medicina. E scarica solo la cosa che mi interessa, adesso non basta, no? Per cavolate non le scarico più. Già il telefono, ogni cosa che guardi te lo metti in memoria, e c'hai mille cose, guardi su Facebook, no, te lo non lo rinca. Ho capito, sì. Oia, sono le 8:10, ci diamo una mossa per preparare la cena, va? Bene, Meda, Gianni, grazie della chiacchierata e ciao Natalino, se sei in ascolto, Giovanni, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ci sentiamo, buona carica quando la fai, a domani, dai, Natalia, avanti. Ciao Claudio, ciao, già ero in ascolto, buon proseguo, là, buona cena, buon tutto. Ciao Carlo, anche da parte mia, buon tutto, ciao ciao ciao Carlo. Io non ho capito ancora, c'è chi lo chiama Carlo e chi lo chiama Claudio, ma come si chiama? Carlo, si chiama Carlo. Attento Natalino, 1, 2, 3, prova cambio. Andiamo, andiamo, cazzo. Ma chi sta così? Cosa fa? Ce uno solo, è buffo, capito? Come mangia bosco. Già, sto prendendo un antibiotico. Via. Ciao Cla. Buonasera a tutti. Di Claudio ce n'è sempre uno solo. Diffidate delle imitazioni. Va bene, diffideremo. A parte Giovanni. 1, 2, 3, come siamo? Quanti ne siamo? Quanti ne siamo stasera? Siamo in tre, siamo rimasti. Di cui uno sta per andarsene in via, che sarebbe sottoscritto, che sta andando a portare il cane. E poi rimanete tu e Natalino, non lo so se Natalino sta cenando ancora o perché stiamo mangiando. No, io adesso me ne passo in quel vestito. E poi c'è Lucariello, Lucariello, avanti. Mi sa che io adesso vado mi guardo un po' di TV, da, chiudo pure io, cioè, mi stavano anche mal di denti. Vabbè là, vi saluto tutti, chiudo anche io, ci sentiamo, con la porta di cane che sta lamentando. Buona serata a tutti, buona carica quando la fate e buon pisolino quando la calletta. Ciao, buonasera a tutti. Ciao, doppio. Ciao, buonasera a tutti. Hola. Oh, yeah, special guy.